Spunta l'alba del 16 giugno, comincia il fuoco, l'artiglieria, il terzo alpini è sulla via, Montenero a conquista, a conquista. Il terzo alpini è sulla via, Montenero a conquista. Montenero, Montenero, sopra di tor della vita mia. Ho lasciato la mamma mia per venirti a conquistar. A conquistar. Ho lasciato la mamma mia per venirti a conquistar. Bello che l'onore sarà per te, sarà per te. Fatti coraggio.